Lettera di Giacomo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che si trovano disseminate nel mondo, salute. Ritenete tutto una gioia, fratelli miei, quando voi vi imbattete in tentazioni svariate, sapendo che la genuinità provata della vostra fede produce la perseveranza. La perseveranza, poi, è quella che deve portare a perfezione l'opera, in modo che siate perfetti, completi, senza che vi manchi niente. Se a qualcuno di voi manca la sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti abbondantemente e non fa rimproveri. E gli sarà data. Chieda però con fede, senza alcuna esitazione. Infatti, chi sta esitando assomiglia a un'onda del mare spinta e sbattuta dal vento. Un uomo del genere non pensi di ricevere alcunché da Dio, essendo come sdoppiato interiormente, instabile in tutte le sue vie. Il fratello che è povero si glori nella sua grandezza, il ricco invece nella sua povertà, poiché passerà come un fiore di erba. Sorge infatti il sole con tutto il suo ardore e fa inaridire l'erba, il suo fiore reclina e la bellezza del suo aspetto perisce. Così anche il ricco nei suoi affari appassirà. Beato l'uomo che sostiene la tentazione, poiché una volta collaudato riceverà la corona della vita che Dio promise a quanti lo amano. Nessuno, mentre è tentato, dica: vengo tentato da Dio. Dio è infatti immune dal male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato, adescato e sedotto dalla sua concupiscenza. E allora la concupiscenza concepisce e dà alla luce il peccato, e il peccato, giunto alla sua pienezza, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni donazione buona e ogni dono perfetto viene dall'alto, discendendo dal Padre delle luci, presso il quale non esiste mutazione né ombra di rivolgimento. Per un atto della sua volontà ci generò mediante la parola della verità, perché fossimo come una primizia delle sue opere. Voi lo sapete, fratelli miei amati, e ciascuno sia pronto all'ascolto, lento a parlare, lento all'ira. L'ira dell'uomo, infatti, non produce la giustificazione di Dio. Perciò, deponendo ogni immondezza e l'abbondanza della vostra cattiveria, accogliete con mansuetudine la parola seminata in voi, che ha la forza di salvare le anime vostre. Siate esecutori della parola, e non ascoltatori soltanto, ingannando così voi stessi. Poiché chi è ascoltatore della parola e non esecutore assomiglia a un uomo che considera le fattezze del suo volto in uno specchio. Considera se stesso e se ne va via, dimenticando subito com'era. Colui invece che considera attentamente la legge perfetta della libertà e vi persevera, divenendo così non un ascoltatore distratto, ma un esecutore concreto, costui sarà beato per il suo agire. Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua, ingannando il suo cuore, la religiosità di costui è vuota. Questa è la religiosità pura e senza macchia davanti a Dio Padre: visitare gli orfani e le vedove nella loro afflizione, custodire se stesso immune dal contagio del mondo. Fratelli miei, non potrete mantenere la fede nel nostro Signore glorioso Gesù Cristo praticando favoritismi di persona. Infatti, se nella vostra assemblea entra un uomo con anelli d'oro e un vestito di lusso, ed entra anche un povero con un vestito logoro, e voi vi rivolgete a colui che porta il vestito di lusso e gli dite: prego, siediti comodamente qui, e dite al povero: tu stai in piedi, oppure siediti là ai miei piedi, non avete forse fatto preferenza in voi stessi e non siete divenuti giudici con pensieri perversi? Ascoltate, fratelli carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo perché fossero ricchi nella fede ed eredi del regno che egli promise a quelli che lo amano. Ma voi avete offeso il povero. Ma non sono forse i ricchi a trattarvi dispoticamente e a trascinarvi dinanzi ai tribunali? Non sono essi a bestemmiare il bel nome che fu invocato su di voi? Certamente, se voi adempite la legge regale secondo la scrittura, amerai il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Se invece avete riguardo alle persone, commettete peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Se uno infatti osserva tutta la legge, ma inciampa in un solo punto, diventa colpevole di tutto. Chi infatti ha detto non commetterai adulterio, ha anche detto non ucciderai. E se tu non commetti adulterio, ma uccidi, diventi trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che saranno giudicate in base alla legge della libertà. Il giudizio senza misericordia è per chi non usa misericordia. La misericordia trionfa sul giudizio. Fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere, che utilità ne ricava? Potrà forse la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella si trovano senza vestito e mancanti del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dicesse loro: arrivederci, andate in pace, scaldatevi e saziatevi da voi, e non deste loro ciò che è necessario per il corpo, che utilità ne avreste? Così anche la fede, se non ha le opere, di per sé stessa è senza vita. Ma qualcuno potrà dire: hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io ti mostrerò la fede partendo dalle mie opere. Tu credi che esista un solo Dio? Fai bene. Anche i demoni credono e rabbrividiscono. Ma vuoi conoscere, sciocco che non sei altro, che la fede senza le opere è inerte? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato in base alle opere, avendo offerto il proprio figlio Isacco sull'altare? Vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e fu perfezionata in forza delle opere. Si compì così il brano di scrittura che dice: credette Abramo a Dio e ciò gli fu computato per la giustificazione e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Similmente anche Raab, la prostituta, non fu forse giustificata in base alle opere per aver ospitato gli inviati e averli rimandati indietro per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così è morta anche la fede senza le opere. Non siate in molti a farvi maestri, fratelli miei. Sappiate che così riceveremo una sentenza più severa. Tutti quanti, infatti, manchiamo in tante cose. E se qualcuno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, in grado di dominare tutto se stesso. Se riusciamo a mettere il freno in bocca ai cavalli e ci obbediscono, noi li guidiamo interamente. Ecco che anche le navi, pur essendo così grandi e spinte da venti impetuosi, sono guidate da un timone minuscolo, a pieno arbitrio del nocchiero. Così anche la lingua è un membro minuscolo, ma può vantare imprese straordinarie. Ecco quanto piccolo è il fuoco e quanto grande è la foresta che esso incendia. E il fuoco è la lingua. Questo mondo di malizia, la lingua, è posta tra le nostre membra. Essa che contamina tutta la nostra persona, brucia la ruota della nostra vita ed è poi bruciata essa stessa nell'inferno. Gli animali terrestri, i volatili, i serpenti, gli animali marini sono stati e vengono domati dall'uomo, ma nessun uomo può domare la lingua. Essa è un male che non dà tregua, è piena di veleno mortale. Con essa noi lodiamo Dio, Signore e Padre, e sempre con essa malediciamo gli uomini che sono stati fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca viene fuori benedizione e maledizione. No, fratelli miei, le cose non devono andare così. Può forse la stessa sorgente far zampillare dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi. Né una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi è sapiente maestro tra di voi? Mostri le sue opere, fatte nella mansuetudine propria della sapienza e frutto di una condotta genuina. Se invece avete un'invidia amara e un'ambizione egoistica nei vostri cuori, non vi gloriate. Mentirete contro la verità. Una sapienza di questo genere non è quella che viene dall'alto, ma è terrestre, animalesca, demoniaca. Dove infatti c'è invidia e ambizione egoistica, là c'è disordine ed ogni azione cattiva. Mentre la sapienza che viene dall'alto, anzitutto, è incontaminata. Poi è pacifica, benevola, docile, ricolma di misericordia e di buoni frutti, priva di esitazioni, priva di ipocrisia. Il frutto della giustificazione viene seminato nella pace da coloro che operano nella pace. D'onde provengono le guerre e le battaglie tra di voi? Non provengono forse dalle vostre bramosie di piacere che si combattono tra loro nelle vostre membra? Bramate e non avete, uccidete e siete invidiosi, eppure non potete ottenere, battagliate e guerreggiate. Non avete perché non chiedete, chiedete ma non ricevete perché chiedete male, con l'intento di dilapidare, seguendo le vostre bramosie. Adultere, non sapete che l'amore col mondo è inimicizia con Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si fa nemico Dio. Oppure pensate che la scrittura parli a vuoto? Lo spirito che abita in voi vi ama fino alla gelosia, ma dà una grazia maggiore. Per questo dice: Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio. Opponetevi al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Voi, peccatori, purificatevi le mani. Voi, anime indecise, mondate il vostro cuore. Lamentate la vostra miseria, affliggetevi, piangete. Il vostro riso si trasformi in pianto, la vostra esultanza diventi tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o giudica il fratello, dice male della legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei un esecutore della legge, ma ne sei giudice. Uno solo è legislatore e giudice, colui che ha la possibilità di salvare e di mandare in rovina. Ma chi sei tu che giudichi il prossimo? Orsù dunque, voi che dite: domani o dopodomani andremo nella tale città, vi passeremo l'anno, faremo affari, guadagneremo. Voi che non sapete quale sarà la vostra vita domani. Siete infatti un filo di vapore che appare per un po' di tempo e poi si dissolve. Dovreste invece dire: se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo e quello. Voi invece vi vantate lo stesso dei vostri progetti ambiziosi. Un vanto del genere è perverso. Chi sa compiere dunque il bene e non lo compie, costui è in peccato. Orsù dunque, voi ricchi, piangete e lamentatevi per le sciagure che si abbatteranno su di voi. La vostra ricchezza è putrida e i vostri indumenti sono divenuti preda delle tarme. Il vostro oro e il vostro argento si sono arrugginiti. La loro ruggine sarà testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco che il salario da voi trattenuto dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida e le urla dei mietitori sono giunte all'orecchio del Signore degli eserciti. Siete vissuti nel lusso sulla terra. Vi siete dati ai piaceri. Vi siete ingrassati per il giorno del macello. Solete condannare e uccidere il giusto che non può resistervi. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco che l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, attendendo con pazienza che essa riceva le prime e le ultime piogge. Siate longanimi anche voi, consolidate il vostro cuore, poiché la venuta del Signore è in calza. Non vi lagnate, fratelli, gli uni contro gli altri, perché non siate giudicati. Ecco che il giudice è alle porte. Prendete come esempio di pazienza e sopportazione, fratelli, i profeti che parlarono nel nome del Signore. Ed ecco, proclamiamo beati quelli che hanno perseverato. Avete udito parlare della perseveranza di Giobbe e conoscete l'esito finale, opera del Signore, poiché il Signore è ricco in bontà e misericordioso. Ma soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per il cielo né per la terra, né con qualunque altra forma di giuramento, ma il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, in modo da non cadere nel giudizio. C'è tra voi qualcuno che sta in difficoltà? Preghi. C'è qualcuno che si sente bene? Canti un inno di lode. C'è qualcuno ammalato? Chiami gli anziani della comunità ed essi preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede lo salverà nella sua difficoltà. Il Signore lo solleverà, e se avrà commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Confessate dunque i peccati a vicenda e pregate gli uni per gli altri perché possiate essere guariti. La preghiera del giusto è molto potente nella sua azione. Elia, un uomo che soffriva come noi, pregò insistentemente che non piovesse, e non piovve in terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo mandò la pioggia e la terra germogliò, producendo il suo frutto. Fratelli miei, se uno tra voi traligna dalla verità e qualcuno lo riconduce indietro, sappiate che uno che ha fatto ritornare indietro un peccatore dalla via dell'errore salverà la sua vita dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.